Reverendo, fai pure i saluti. E se non ve ne siete accorti, siete su Radio Wombat. ...19.06 di questo venerdì. Venerdì 8 maggio, di gioia, c'è ancora luce. Se non ve ne siete accorti, è appena cominciata la diretta dagli studios di Frittole di una nuova puntata di Radio Contatto. Reverendo H. Neverboy ai controlli. E qui a fianco a me c'è il doctor, doctor lui, doctor noi, ma soprattutto doctor io. A Dr. Dre. Oggi, allora, questa sera, questo bellissimo venerdì tardo pomeriggio, non ci sarà il Radio Pippone, quindi sarà un radio aperitivo molto leggero, quindi preparate i bicchieri, preparate vai, facci sentire come sorseggi la birra. Yes, questo è Neverboy che sorseggia la birra. Bellissimo. Insomma, mettetevi comodi, birrette, cicchini, cannini, quello che vi pare per rilassarvi. E rimanete sulle frequenze di Radio Wombat e passeremo insieme le prossime 2 ore con tanti collegamenti interessantissimi, con tanta musica interessantissima. Cioè, in realtà non ci siamo preparati niente, quindi sarà tutta così improvvisata. Quindi potete aiutarci a costruire la puntata insieme. Assolutamente. Questo è il nuovo gioco di Radio Contatto. Facciamo la puntata insieme, visto che noi non ce la prepariamo. Quindi potete contattarci direttamente sul pad. Sul pad a cui accedete, io non ve lo dico l'indirizzo, andate sul blog Radio Wombat, quindi wombat.noblogs.org, e dove accedete direttamente al pad per scriverci in diretta quello che vi pare. E se poi vi sentite anche più prolissi e volete farci sapere qualcosa in privato, avete una canzone, una richiesta, se avete altre cose più urgenti da dirci, potete scrivercele in mail, la nostra favolosa mail, ce l'abbiamo qua aperta davanti agli occhi, ed è frittole@gattini.ninja. E arrivano i nostri ospiti con calma, come ogni venerdì. Altre birrette, ma soprattutto un ospite da noi veramente ospite, non è un ospite perché però è un personaggio, un'entità veramente attesa da noi veramente tanto tempo, qui a Frittole ci mancava, ed è con estremo piacere che annuncio il ritorno in studio di Modesta. Evviva! Buonasera, buonasera. Che è emozionante splendore essere qua dopo tutto questo tempo, non so neanche quanto ne è passato a questo punto. Sono 2 mesi ma sembrano 2 anni. Oddio, che ansia a dirlo così. Sembrano un mese ma sembrano 2 anni comunque. Ci ciao, sei mancata doctor, davvero. Ciao Reve, quanto tempo. Ciao Modi, ci sei mancata. Come stai? Bene, guarda, non sono cambiati gli studios in questi anni, effettivamente. Sono rimasti abbastanza uguali. Forse l'unica cosa che è cambiata è aumentata quella bolla sul muro. Ah, quella bolla dell'intonaco del muro, e prima o poi scoppierà e distruggerà tutto addosso. Intanto, prima di... non so di cosa stavate parlando, mi sono entrata un po' così a gamba tesa. No. Anzi, con certo ritardo. Ci hai aiutato a cavarci l'impiccio di... Però volevo, prima di tutto, ringraziarvi per gli auguri in diretta nella scorsa puntata. Oh, ci hai sentito. Sì, e soprattutto farvi complimenti perché è stata una puntata davvero, davvero bella, interessante e densa. Quindi, dai. È vero, è vero. Sono senza parole. Esatto. Grazie, comunque, comunque, bentornata di nuovo. E senti, iniziamo, dai, affrontiamo il primo argomento, forse è l'unico argomento che abbiamo. No, non è vero. Sarà una sorpresa. Questa puntata sarà una sorpresa. Comunque, il primo argomento che trattiamo è la riapertura del mercato di Piazza Tasso. Wow. Che è avvenuta oggi pomeriggio. E quindi noi vorremmo contattare direttamente una persona che è presente al mercato, che adesso è finito, sì, per farci un po' raccontare com'è andato questa riapertura del mercato contadino. Voi sapete che stiamo rubando cose alla nostra altra trasmissione Radio Contadina della prossima settimana, no? Ma esatto, però è anche vero che gli stiamo anche facendo pubblicità. Infatti io invito tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori a riascoltarsi la puntata di mercoledì scorso di Radio Contado, in cui si parla del mercato e della riapertura di oggi. Bene, ci stiamo chiamando, è una sorpresa. Allora, per te è una sorpresa. Puoi immaginarti che stiamo chiamando comunque. Una nostra cara amica, una nostra carissima amica. Una voce amatissima, forse riconoscerete anche voi. Speaker di Radio Contado. Pronto? Pronto? Pronto? Chi hai chiamato? Allo? Pronto? Chi è? Ho sbagliato numero. Ma no. Allora va bene, era uno scherzone. No, non ho sbagliato. Ma possiamo mandare un pezzo per toglierci dall'imbarazzo di questo scherzo telefonico e poi no, chiameremo... È strano perché l'abbiamo chiamata un minuto prima di iniziare la trasmissione, però... Forse è la dama che ci fa gli scherzoni. Era la dama, ha risposto, sì, un damo. Il numero è giusto. Allora sarà stato... Potrebbe aver risposto il gringo. Però non... Doctor, secondo me abbiamo scasinato troppo col mixer e non ci sentono per un motivo. Ah, dici, è vero, ma perché non abbiamo provato. Di dovete sapere che io posso sentire la telefonata. Sì, pronto? Ci senti? No, non ci sente. Non ci sente. Pronto? Non si sente nulla. Ma raga, non si sente. Dovete sapere che abbiamo pulito il mixer oggi e l'abbiamo rimontato male. Non quindi reverendo, manda un brano, vai. Basta alzare, si risolve la questione. E io dedico questo album alla Pippi, che spero che ci ascolti. collegamento? Il collegamento, pronto? Ci senti adesso? Sì, sono il Damo. Oh, eccolo, ce l'abbiamo fatta. Ho cambiato, ho fatto l'intervento nel giro di qualche giorno. Wow, super. Quanti cambiamenti? La mia voce più profonda. Eh certo, la fase 2 l'hai presa proprio sul serio, te hai cambiato esatto. Tutto. Hai rubato il telefono! Sentiamo la dama e te chiaramente sei la gringo. La dama è in sottofondo. Sì, esatto, sono gringo. Stupendo. Come avete fatto a indovinare, sono gringo. Allora, volevamo fare questa chiacchierata un po' come succede a fine partita, no? Quando i giornalisti vanno a lì. A caldo, a caldo. Vanno lì, esatto, a caldo. Impressione a caldo di questa riapertura del mercato di Piazza Tasso. Com'è andata? Il mercato, allora, dal punto di vista formale, quindi parlo da... Colle oceaniche! È stato un bel mercato frequentato. Siamo riusciti a mantenere distanze, a rispettare tutte le regoline, quindi da quel punto di vista siamo andati bene, ci sono le foto che lo testimoniano e c'è stata anche una discreta partecipazione da parte dei coproduttori e questo è bene, insomma. Mm-hmm. È venuto anche qualcuno a darci una mano delle tastiere, dei nostri, diciamo, contatti della comunità di resistenza contadina. Sì. Che è venuto a fare il servizio d'ordine insieme a noi, quindi anche questo è una vittoria per noi, per cui il quartiere ha risposto, bene, molto importante. Al nostro grido di aiuto. Sì. È andato molto bene, insomma, il mercato. Speriamo di non avere problemi anche per le settimane a venire, anche perché da quanto durerà questa situazione, no? Eccezionale. Comunque noi ci siamo preparati, avevamo tutto l'occorrente, la gente è stata anche molto disponibile seguiva le nostre indicazioni, quindi insomma. La signora mi ha detto che palle! Segni, primi segni di insofferenza. esatto. Manca poco parte. Comunque non si è avvertito troppo senso di disagio per le nuove disposizioni alle quali siamo stati obbligati anche noi a sottostare, no? Ma per diciamo sì, hai centrato bene il punto, nel senso che qualcuno magari buffava, diceva che palle, però insomma si sono presentati tutti con le mascherine, o avevano i guanti oppure vendevano il detergente, il gel per leggere le mani. Ci si abitua, però si vede che non è la nostra natura, perché comunque il mercato visto da fuori comunque produceva rumori. Insomma, ci sono stati dei casi di smatto, il virus di cui leggevamo venerdì scorso. Virus esatto, smatto, la gente zero. Parlava, polizia virus, smatto zero. Sì, esatto. Proprio la gente non ce la fa a non parlare, fa parte del nostro DNA, quindi che va benissimo. Nel rispetto, diciamo, delle regole ci sono state, diciamo, dettate, imposte. Siamo riusciti comunque a mantenere la nostra identità. Parole forti. Certo, e a me insomma mi veniva un po' una riflessione, un pensiero in testa che poi se ne può anche parlare più tardi un po' in studio così, però la cosa che a me un po' mi turba è che poi tutta questa situazione di controllo, di distanziamento, che sì è vero pian piano riaprono le cose, insomma si ricomincia a fare un po' di cose e di interazioni sociali per fortuna, però sempre chiaramente con questo peso, no, della responsabilità, di un controllo di un controllo per la nostra salute, eccetera, eccetera. E la mia paura è un po' che poi diventi la normalità, no? E quindi sia normalizzato il distanziamento. Questo è un rischio reale, perché non lo diciamo noi, che insomma, se perché non, ricordiamo, scusami, caso, scusa Gringo, sì. ti interrompo un attimo per ricordare che appunto il mercato di Piazza Tasso è molto più di un mercato, è sempre stato più che un mercato un luogo proprio di aggregazione in cui ogni venerdì venivano proposte iniziative sociali, assemblee appunto, cioè tutta una serie di eventi che adesso appunto sarà molto difficile fare, o comunque pian piano si ricominceranno a fare, però ecco appunto, cioè il mercato genuino clandestino ha voluto sempre dargli questa connotazione qui, chiaramente non solo un luogo di scambio di qualcosa, sì. ma di uno scambio totale, non solo di beni alimentari, ma proprio di esperienze e di cultura, no? Esatto, sì, è un luogo in cui si sperimenta, si sta provando a sperimentare un nuovo stile di vita e va proprio al di fuori, al di là delle logiche di mercato e anche di sovvertire un po' queste logiche dello stare insieme solo per interesse. Lì si viene, si può acquistare comunque prodotti sani, ma soprattutto si può anche socializzare e venire anche solo per, ora non in questo momento, poi non vogliamo far polemica, ma appunto il nostro mercato era nato per far incontrare le persone e quindi cambiarsi questa socialità che magari è perduta da chi produce, chi consuma. È un po' brutta, detto così, lo dico veramente in maniera molto brutta, però diciamo da questo incontro nasce poi quella rivoluzione che noi cerchiamo di portare avanti della società. È un po' il cerchio che si chiude dell'agroecologia, nel senso sì. Che non prende solo il posto. Si è spento Gringo. Pronto? Ci sei ancora? Guarda, aveva quasi concluso il discorso, mancava veramente 5 secondi. È sparito. Eccolo, ci sei? Ti abbiamo perso un attimo. Abbiamo perso. Comunque il concetto l'abbiamo è arrivato, esatto, è fondamentale. Si parla sì sempre di appunto della transizione agroecologica, esatto, come la agrinculogica, la rivoluzione da fare, diciamo così, dai. Sì. E noi ci siamo. Esatto. Perfetto. Poi avremo modo di approfondire sempre in questi studi mercoledì prossimo con Radio Contado. Stiamo facendo certo, un po' confusione. Stiamo facendo confusione fra Contado e Contatto, però va bene, dai. Niente. Sì, a presto. Approfondiremo in futuro. Un abbraccio alla dama. Un abbraccio anche a voi, anche dalla dama. Ciao amici! Ciao dama! Ecco bene, grandi. Un abbraccio. Perfetto, a tutti. Presto. Un bacione, ciao, a buona tutti. Serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Grande. E dai, mandiamo quindi un pezzettino, rischieriamoci le idee. Super, qui a Radio Spumeggiante va tutto benissimo. Radio Spumeggiante, Radio Birretta stasera. Bene. Stavo pensando alla suggestione del doctor sull'abitudine, speriamo mai, al distanziamento, oltre che fisico-sociale, perché sono un po' diverse le due cose. Quello che noi dobbiamo mettere in atto al mercato è un distanziamento fisico per forza di cose, ma non è un distanziamento sociale, direi. Sì, sono d'accordo. E non so, anche l'abituarsi mi preoccupa alla sofferenza che questa obbligatorietà comporta, perché una persona come me molto tattile sta un po' soffrendo in questo periodo di distanza e di stacco. Gli abbraccini sono importanti. Un sacco. Senza dubbio. Senza dubbio, sono molto importanti e infatti qui in studio siamo felicissimi di abbracciare anche un'altra entità che si è palesata. E sto parlando di Stamp, che ha il microfono spento. E adesso lo accendiamo. L'abbiamo censurato così. Eccolo, è arrivato, stampeggiando. E senti, no, voglio farti subito i complimenti, non so come dire, però ringraziarti della puntata di venerdì scorso. Ecco, il microfono è... Scusate, un po' di... È un po' doloroso. Aspetta. Prova a tenere il cavo all'indietro. Pronto? Vediamo se a ruotarti come sta andando. Dottor, l'avevo riparato il cavo. Così. L'avevo riparato il cavo. Va così? Così va meglio. Cioè, amici, non è carino dare agli ospiti il microfono che non funziona, No, dicevo che è stata una puntata bellissima quella di venerdì scorso, dove ci hai letto, ci hai parlato della storia dei martiri di Chicago e, insomma, è stato veramente interessante. Io non ero in studio, l'ho ascoltato da casa e è stato veramente bello, quindi grazie di questa cosa che hai condiviso qui in radio. E vuoi intanto semplicemente presentarci un po' quello che vuoi leggere oggi? Poi magari lo leggi più tardi, non lo so. Sono spostato, diciamo, di 100 anni. Avanti. Avrei un'introduzione un elogio alla radio, ad essere sinceri. Questo viene da un libro che si chiama Attraverso. Che la rivoluzione è finita, abbiamo vinto. Ripercorre un percorso di una rivista dal 75 all'81 e oltre qualche pubblicazione l'hanno fatta anche dopo. Nata in Bologna da un cambio di paradigma dell'autonomia operaia. Cui si trova negli anni che sfociano nel 77. Chiaro. Bello, sarà molto interessante, periodo molto caldo, dal quale non smettiamo di imparare di studiare cose nuove comunque. E quindi come vedete, come sentite, anzi, in realtà è una puntata veramente densa, veramente figa. E non è vero che non abbiamo preparato nulla. No, era solo all'inizio, eravamo io e il reverendo che mi sentivate soli. Non sapevamo che fare. Ma anch'io ho preparato delle cose. Giocavate a Doctor. Esatto, l'unico sono io che sono qui, bevo le mie birrette e continuo a invitarvi a scrivere sul pad della diretta Wombat oppure a scriverci le mail all'indirizzo frittole@gattini.ninja, ecco. Se no, il pad della diretta Wombat lo trovate da wombat.noblogs.org, in modo per interagire con la diretta, direttamente con la diretta. Diretti. Vuoi leggere, Rebe? O diamo la parola al nostro... Sì, io volevo leggere... Ma no, dai. Facciamo dopo le cose divertenti. Un sacco di rubriche divertenti. Sì, sì. Ma facciamo dopo, dai. Facciamo prima le cose serie. Non solo, poi avremo anche un altro racconto, il nostro mitico concorso. Anzi, mandate racconti. desideri. Mi state guardando intensamente. E sì, ricordatevi del concorsone letterario in cui si vincono splendidi premi. E poi ora che c'è di nuovo il mercato a Piazza Tasso potete anche venire a ritirarli. Esatto. E vi accorgerete, non è vero, chiederete in giro. No, no, no. No, ci stiamo organizzando per preparare, per fare una premiazione. Esatto, sarà ufficiale, prima o poi lo faremo. Comunque ricordatevi che tutti i venerdì noi leggeremo gli iscritti che voi ci inviate e che volete condividere con noi qui in studio e con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Quindi insomma, però dai, ultimamente stanno arrivando un po' di roba, un po' di cose scritte, quindi anche oggi leggeremo qualcosa ed è roba molto bella, fra l'altro, roba molto bella. Quanto bella? Tanto. Beh, Stampa, elogiaci. Sì, infatti. Questo elogio in realtà non parla di Attraverso, perché sarò sincero, prendo solo questo estratto per oggi, perché non ho ancora finito il libro. Quindi al momento che l'avrò fatto, ripercorso, vi farò delle sintesi belline. Questo non parla di Attraverso, ma di una sua contemporanea che è Radio Alice in Bologna. Io. Mm-hmm. E ve lo leggo come lo presenta. Si potrebbe immaginare un film muto negli anni 20, con la tipica patina di sporcizia dovuta alla polvere e ai tagli sui fotogrammi causati dal tempo. Si potrebbe immaginare la sua colonna sonora, tutta un allegro di pianoforte alternata a note cadenzate e gravi di ottoni reboanti. Si potrebbe immaginare i personaggi, un gruppo di ventenni in frac, militanti, fumatori incalliti, riuniti attorno a un tavolo, affranti e disillusi, forse anche un po' annoiati. Si potrebbe immaginare i loro movimenti, a scatti, dovuti alla velocità ridotta con cui i frammenti fotografici della pellicola vengono messi in moto, le schermate nere, dove compaiono i dialoghi, laconici e traballanti. Questi giovani si potrebbe immaginarli intenti a studiare. Qualche testo, sempre immaginando, si riconoscerebbe. Ecco il malloppo del Capitale, l'Antedipo dei paperbacks e Einaudi, Alice nei Paese delle Meraviglie della Longanesi, quello con le illustrazioni originali di John Tenniel. Finché si potrebbe immaginare che il libro di Alice venga sollevato in aria e la noia interrotta da un urlo di gioia, muto. Esplosione di percussioni, piatti e rullanti comincerebbero a scoppiettare, la scena si farebbe frenetica. Uno dei personaggi ha avuto un'idea grandiosa, fare una radio. E allora si rubi un trasmettitore militare, si issi un'antenna e si comincia a trasmettere senza freni. Queste le faccende da sbrigare. E poi subito si scenda per le strade di Bologna e si corra sotto i portici come pazzi, piturati come indiani, con indosso il vestito della festa, da pagliaccio, da istrione, ad annunciare la buona novella. È nata la piccola Alice, è nata. Tutte queste cose si potrebbe immaginarle, infatti il regista Guido Chiesa lo ha fatto esattamente in questi termini. In un film del 2004, e qui sta il consiglio cinematografico, che racconta l'avventura di Bifo e dei suoi compagni. Lavorare con lentezza. Il nome della pellicola riprende il titolo della canzone del cantautore napoletano Enzo Del Re, con cui si aprivano le trasmissioni della radio. E con le stesse parole anche questo capitolo si apre. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Bene. Complimenti, bellissima interpretazione anche. Esatto. E... sì. Stomp. A parte molto attuale, veramente. Che devo andare dottor, a letto. Mi rubi le parole di bocca. sì, veramente appropriata per questo momento. Sì, e poi un bel, una bella storia di radio, insomma, quindi... Ci ricorda un po' le origini di quello che sta avvenendo adesso. Esatto, esatto, grande. Bellissimo, bellissimo contributo, guarda. E ricordaci un attimo il testo. Il testo, esatto. È di Luca Curcu, Attraverso, di Derive a Prodi. La rivoluzione è finita, abbiamo vinto. È tratto da questo libro. Gli autori della canzone sono Enzo Del Re, il regista Guido Chiesa di Lavorare con Lentezza, entrambi hanno lo stesso titolo, e la radio è Radio Alice, nata nel 76. Veramente una bella storia, anche molto attuale, appunto, come dicevamo. Neverboy, facci ascoltare qualcosa. Io alzerei il nostro tappeto. Alziamo il tappeto, che ci piace così. Ho anche riascoltato quel pezzo per capire se era... Scusate, volevo solo dire che ho scaricato così in tempo record Lavorare con Lentezza. Lo sapevo che l'avresti fatto. Posso ammetterla, sei un eroe. Lavorare con Lentezza senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza. Senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. Ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io... Perciò io? Bellissimo. Perciò io non lavoro. Quel lavoro con lentezza. Bel finale. Enzo Del Re, lavorare con lentezza. Troppo. Veramente appropriata. Bellissimo, è un po' un inno, proprio un inno, sì, per come prendere il lavoro. Hai scaricato la versione pacco. A parte perché... quello, a parte quello. E poi che accelera comunque. Cioè, lavora con lentezza. Lavora con lentezza ma accelera. Non è un ritmo lento. No. No, non è per niente lento. Siamo sempre con Gabor Szabo, che oggi ci accompagna in questo viaggio. E se vi siete sintonizzati ora, siete ancora sul Wombato, su Radio Wombat, e state ascoltando Radio Contatto, che non si chiamerà più così a breve. E come si chiamerà? Questa è riverendo, è una rivelazione, eh? Ti sei stufato di questo nome? A parte sì, cioè prima dire che avevamo bisogno di contatto era una cosa figa. Il resto lo dicono tutti. Sì, è diventato un po' banane. Vabbè, comunque è una delle bellissime e varie dirette speciali, no, su Mamma Wombat. Sì, mi piaceva Radio Confusione, come l'avevi definito tu. Poi comunque ho scoperto grazie alla mailing list del Wombat che Radio Contatto, anche altresì detta Contatto Radio tutto attaccato, è una radio esistente. C'è già. Ah, no. Ma siamo nati prima noi o prima loro? Viva il plagio, viva il plagio. E di dove sono? Sono di Massa. No, sono di Carrara, scusa. Di Massa la... o di Carrara? Ho scazzato, sono di Carrara. Carrara. Delicato. Vabbè, visto che hai menzionato quei luoghi, ci sembra doveroso salutare le compagne e compagni della Casa Rossa occupata, che fra l'altro hanno subito poco tempo fa un... è stato un incendio, un tentato incendio, non si è capito bene, comunque... Cercheremo di metterci in contatto con i compagni, purtroppo questa settimana non ci siamo riusciti. Credo che qualcun altro del Wombat ce l'abbia fatta la settimana scorsa. Comunque tutta la solidarietà alla Casa Rossa occupata, sempre. E apriamo un altro concorsone, che è quello del nuovo nome di questa trasmissione. E io da Radio Contatto propongo di trasformare il nome in Radio Conato. Ma doctor, guarda, se bevi troppo non tirarci in mezzo pure a noi. Esatto, come va a finire per me la trasmissione? No, sto scherzando, c'è un umorismo brutto io. Ero dimenticata, guarda, dico questo. Nato per la società. Già meglio. Beh, la prossima... Io comunque, scusate, sono così un po' stupita di non trovare più volti e voci femminili che le scorse puntate hanno accompagnato le vostre. E sono l'unica, di nuovo. Dove sono finite? Rosa, Marina, Morgana, Diesis. Che le avete fatto? Non scappate. È scattato il sole. Giustamente. Il sole giusto estivo. Giustamente. Hanno di meglio da fare. Esatto, di chiudersi nello studio di frittole. Vabbè, torneranno un po' a sorpresa, come hai fatto te, cara Modi. E qui a Radio Aperitivo invece vorrei iniziare a parlare di cena, perché sei veramente bolle avanti, in pentola qualcosa. Sei avantissimo. Perché sì, perché Arcorella 2000, il nostro quotidiano satirico veramente di nicchia, di riferimento. Di riferimento. L'unica informazione di cui ci fidiamo veramente dice che la cena per i gruppi è l'unico antidoto al coronavirus, ma i giornali non ce lo dicono. Tutto l'ambiente dei pensatori liberi è in questi giorni alle prese per trovare su internet la cura al coronavirus, che sicuramente esiste già, ma che i politici non vogliono che si scopra per sterminarci, e le aziende farmaceutiche nemmeno, perché vogliono i nostri soldi. Era chiaro questo, eh? Era chiaro a tutti. Guarda, io l'ho detto subito. Quando si dice i pensatori liberi, diciamo, perché tanti altri mi sa che non ce l'hanno ben chiaro. Comunque, da giorni molti sostengono che il plasma sia la vera cura, ma per quanto promettere da parte nostra, no, da quanto promettente, per quanto promettente, non so più leggere, da parte nostra abbiamo una nuova teoria. Attenzione. Qualcuno di voi ha notizie di punk contagiati? No, no, perché non ce ne sono. E il motivo è semplice: i punk sono immunizzati dall'unico elemento che li ha uniti tutti in passato. Volete sapere qual è questo elemento? Siete gelosi, eh? È la cena per i gruppi. Quella pietanza mitologica composta in parti uguali da ingredienti di recupero, senso di frustrazione del promoter, offerte da discount ed ingredienti segreti che hanno a che fare con gli animali domestici di chi ha cucinato. Un piatto che si declina in centinaia di varianti, spesso sgradevoli, sempre poco salutari, ma che evidentemente mette al riparo coloro che sopravvivono dall'insorgere di gravi malattie che possono portare anche alla morte. Ebbene sì, ebbene sì. Marcorella 2000 ci dice che questa teoria è sicuramente valida dal punto di vista scientifico, hanno provato a pubblicarla sulle riviste scientifiche, ma ci hanno reso in faccia con la scusa che non siamo medici o ricercatori. Ma che sono solo schiavi del sistema, questi che li hanno rimbalzati, che è tutto un complotto. Infatti Arquarella continua dicendo: noi però bravi, sappiamo di essere nel giusto, e abbiamo già contattato Feltri, Belpietro, Barbara D'Urso, sì, Mario Giordano per diffondere la scoperta. I giornalisti seri, sì, quelli che ne sanno. Quelli che diventeranno punk, tutti quanti. Per sopravvivere. Già ci emozioniamo a pensare a Feltri che spancula Burioni grazie alla nostra cura. Sì, grande. Io mi emoziono a pensare a Sallusti con la cresta. Quindi, se per caso tu, caro lettore o ascoltatore o ascoltatrice, dovessi ammalarti, non incolpare la sorte o il governo che non ti protegge, ma maledici quella volta che prima di suonare hai detto che avevi già mangiato e sei scappato alla pizzeria di fronte invece di gustare i manicaretti. Pavido! I manicaretti che i punk di casa, i loro cani, avevano cucinato per te, ingrato. Posso confermare, infatti non mi sono ammalato. E anche voi che ci ascoltate, aiutateci a confermare questa notizia. Se anche voi non conoscete nessun punk contagiato, sarà sicuramente vero. Ditecelo, dimostriamo insieme che questa è una vera cura a tutti i mali. Ale, sul pad siamo soli. Che tristezza, l'altra volta era pieno davvero di scritte. Siete proprio cattivi. Il primo maggio era veramente una festa anche sul pad, e oggi 8 maggio tutti ci dimenticano. E poi io mi rivolgo proprio a voi, 15 entità all'ascolto che ci state ascoltando. 14, vedi? Di cui una sono io. È già andata. Ah, 13. Va bene. Stanno scappando. Mayday. Insomma, dai, contattateci. Radio Conato. Se no ce ne andiamo anche noi a cena con i gruppi. No, sono solo le 8. A cena con i punk. Non è neanche arrivato il giro di boa. Va bene, quindi reverendo, facci sentire qualcosa. Stupisci. Mi faccio sentire qualcosa. Sei le bronde? No. No, no, no, io no. Facci male. Vi faccio male, vi faccio male. No, non so se fare tanto male o poco male. No, tanto, tanto. Metti la roba a caso. Vabbè, insomma, cose tranquille. Violenza. Ancora un paio di minuti di violenza sonora. Troppa pesantezza, cari miei. Volevo così andare alla rassegna scappa, che sono 2 settimane che non c'è. Sono 2 settimane che non se ne sente la mancanza. La gente scappa ancora? Ora che siamo nella fase 2, che è tutto permesso. Non è vero. Fase 2 è tutto uguale a prima. Esatto, smontiamo questo mito del cazzo. Scusate, ho detto una parolaccia. Sei veramente scurrile oggi. Eh no, la cosa bella è che no, sono ritornate le solite notizie di merda in cui c'è qualcuno che investe un ciclista e scappa, c'è qualcuno che provoca un incidente e scappa, c'è qualcuno che fa qualunque roba brutta e scappa. Cioè non ce ne sono più tutte ste notizie di inseguimento delle forze dell'ordine. Però c'è ci piacciono quelli a noi, la gente che scappa nei boschi, tipo nel mare, i ciclisti che scappano. Quindi vabbè, insomma, direi che è l'ultima puntata, però io posso dire che così, molto scorrendo le notizie, vi leggo le ultime divertenti, poi chiudiamo anche questo capitolo per aprirne uno nuovo, tra un quarto d'ora lo apriremo. E cioè, Buffalo scappa dal recinto e attacca una famiglia, nulla da fare per il padre di uno dei figlio in fin di vita, che notizia di merda. Pesa. Perché me l'hai segnalata a stampa? Era solo la prima Buffalo parte. Scappa dal recinto, ok. Ok, scusate. Non era propriamente divertente. No. E scappa di casa per amore. 14enne ritrovata a Milano, giusto. ne ho trovata una, intelligente no. Ah, da Sarzana Lucca per trovare i nonni al controllo della polizia scappa, multato, ecco. Ma come? L'ultimo, l'ultimo. Cioè non è neanche una gran fuga, no. Voglio dire, da Sarzana a Lucca, cioè. Vabbè, però quanto pare. Si è emozionato. Vabbè. E poi i nonni sono congiunti. Esatto, poteva anche farlo, cioè non si capisce. 2 ore fa, eh. Fresca fresca. Scappa da reparto Covid e gira in città al Genova. Qui rischia, capite? Rischia grosso. Se beccano, fanno un culo. Inseguimento da film in pieno centro a Milano. Uomo scappa dall'ambulanza. Grande, bello questo. Finendo con l'essere arrestato per ben 2 volte nel giro di poco più di 2 ore. Immagino che sia la seconda volta è stata una bella fuga. Gli sbirri non l'hanno magari trattato proprio no. Bene. L'ultima gente che scappa dall'ospedale, questa, sì, questa ventenne positiva al Covid che scappa. Solidarietà. Poi c'è un orso che scende dal balcone e scappa via. Solidarietà all'orso. Provincia di Avellino. E poi solo altre notizie di merda, di gente che fa robe brutte e poi scappa. Siamo già troppo tornati alla normalità, no? Sì. Anche un bimbo di 4 anni scappa di casa e lo ritrovano in Piazza Rossella. Oh, shit. Vai, è finito. Finita. Non è vero. Deumanization dei Meshuga è il nostro tappeto. Stiamo facendo scappare anche noi i nostri pochi ascoltatori. Diventa sempre meno. Allora, siamo sempre noi sul pad, uno solo. Ah, una mail. Una mail, attenzione. Eccoci. Martina, nostra carissima ascoltatrice, ci scrive: ciao belli, viva la modesta, non sei sola. Non sei mai sola, le tue fan ti supportano. Richiesta musicale. E poi c'è la richiesta musicale, non capisco se è un riferimento a Zorro o... Comunque, proveremo ad esaudirla, grazie Marco. Ti proveremo ad esaudire, esatto. Siamo già qua. Grande, grande, grande. Speriamo di non scaricare una versione pacco così al buio. Magari scarichi la cover dei Meshuga. E poi fra un paio... Sergente Garcia. Impongo un cambio di tappeto perché non ce la sto facendo più. Sì, va bene, ma... Comunque la gente è felice che la Modesta è tornata in studio. Yeah! Anche noi siamo felicissimi. Viva le fan. Cosa? E voi dov'è che scappate? Dov'è che siete scappati? Scrivetecelo sul pad. Oh, grande. C'è coso. Sul pad c'è scritto Meshuga. Si capisce? Ho messo 200H. E il cuoricino, giustamente. Ti vogliamo bene, coso. Questa cosa del pad è molto divertente. Se iniziate a usarla, iniziamo a usarla tutti insieme. Poi ci facciamo le risate. Questa diventa radiosimpatia. È il mio sogno, radio simpatia, allegria. Radio cazzata. Sì, il pad è veramente uno strumento carino. Ecco, no, coso si è autocensurato. Ritratta. Coso è un po'. È un po' confuso. Dice non si ricorda come si scrive. Non ricordo come si scrive. Poi fa dei versi strani. Ti leggiamo in diretta, coso. In vabbè, realtà dai. L'avevi scritto bene. Esatto. E il nostro caro doctor non che... si capisce. Ha delle turbe strane. Comunque su questo siamo connessi, sulle turbe. E cambiamo. E vai così. Bene sì, Coso, ci dai motivazione per continuare questa diretta. Se fosse per noi, guarda, finalmente il Yo. Pubblico ci dà dei riscontri. Sì, questo è il contatto che cerchiamo. Grande, grande Coso, stare a tu per tu con te è bellissimo. Vediamo, vediamo se allarghiamo, allarghiamo la community del pad con le altre entità all'ascolto. Vi invito, care entità, a contattarci sul pad della diretta. O anche sulla mail, come ha fatto Martina. Abbiamo pronta la canzone, la richiesta della Marti. Sì, sì, sì, ce l'abbiamo. Siete pronte? Volete sbeddare? Lì ce l'ha, presentacela, Neverboy, presentacela. Esta canción se llama Camino de la Vida y es de Sergent García. Grazie. Questo cambio leggero, E ora dovete sculettare, sculettare tutti quanti e tutte. Tutto quanto sculettando. Del destino, sí. Desfía de las olas del orgullo, no. Déjame tu palma que te eche la aventura. Déjame tu palma que te eche la aventura. Rayos y tormentas, truenos y centellas, dame fuerza tremendosa que lo mío sea mucho. Rayos y tormentas, truenos y centellas, dame fuerza espantosa con los humos poderosos. corro. Il sole mi insegue salite e discese, sanguinano i miei piccoli piedi lacerati e da molto che mi si è prosciugata la mia saliva. Corro di notte e di giorno, ormai le mie gambe non rispondono. Alzando la testa vedo lontano l'orizzonte, mancano molte salite. Ma so che devo continuare, che non posso accasciarmi, devo continuare a correre, non mi possono prendere. Corro per la libertà, sono il miglior corridore, il primo, non c'è cambio, questa è la mia maratona. Cominciò saltando il muro di quella che fu la mia prigione. Lì mi sollevai, ma la strada è lunga, dura molto la maratona. Tutti mi inseguono. Se uno mi sorpassa, la mia corsa finisce. Ormai le mie gambe cedono. Ho bisogno di riposare. Ho bisogno di un nascondiglio dal quale poter guardare. Sono stanco e non reggo. Voglio lasciarmi cadere. Voglio cedere il cambio. Voglio smettere di correre. Sento voci da lontano. Lo abbiamo! Lui! Salto, spinto di nuovo. E tornano a volare i miei piedi. Non ci sono catene, non ci sono cambi, non mi lascerò prendere. Ma di nuovo mi stanco. Sento che non vincerò. La maratona è molto lunga e mai ce la farò. Da quando ho cominciato a correre non ho potuto riposare. Sempre guardandomi intorno, sempre guardando indietro. Con il cuore in gola e i nervi tesi. Senza dormire quasi niente, sarò sempre un emarginato. In carcere e nella strada, sempre come un perdente. Sarò libero solamente mentre dura la maratona. Antonio Vasquez Vasquez. Questa è la grande maratona. E qua viene il consiglio letterario. No. È al in una parte del libro di Adios Prison, scritto da Juan José García, il quale di nella rubrica Scappa potrebbe raccontare molto, visto che la prima volta che viene messo in carcere ha 17 anni, dura un paio di mesi. La seconda volta che viene messo in carcere, se non sbaglio, ha 24 anni e è nato nel 66. Si trova nella Spagna, in anni difficili, figlio di proletari, con pensiero di libertà e di comunismo. Abbandona quella che è la vita da compagno per riprendere delle parole di Bakunin, dicendo che il delinquente è uno tra i più efficaci nel combattere il capitalismo. E il libro che vi propongo parla di cinque scappatoie di sei persone che si sono trovate prima che quattro lasciassero questo mondo per via dell'eroina e nel carcere di massima sicurezza spagnolo, il FIES, e racconta con lo sguardo di un uccellino che si affaccia dalle grate le evasioni di queste persone dal carcere, la loro grande maratona per la libertà. Un po' mi faceva ridere pensando che andare a correre in questo momento è uno dei modi per non farsi rompere tanto le scatole per andare a giro. Ecco, quindi fare jogging potrebbe essere anche, ricordando quello che è successo nelle carceri italiane, che è stato completamente insabbiato all'inizio del coronavirus. Sarebbe bello già rintracciare notizie da espandere da queste frequenze. E nulla, sono parallelismi, ve li lascio. Vi ripeto il titolo, che è Adios Prison di Juan José García. E si trova nella Biblioteca dell'Evasione, dalla distro Desorden. Quindi nulla. Se vi interessano scappatoie, queste sono alcune. In buona parte violente, in buona parte non hanno gran successo visto che tutti ritornano in carcere, il racconto parte da lì. Il caro Juan José Garfia è condannato a 127 anni di carcere nei carceri di maggiore sicurezza in Spagna, quindi potenzialmente potrebbe arrivare al 2100 lì dentro. Grazie Stamp, ti chiameremo per la prossima rubrica Scappa, speriamo che non ce ne sia bisogno. Però un pensiero rivolto a tutti coloro che si trovano in un, in un luogo di reclusione, bestemmioni. Vabbè, in realtà speriamo che della rubrica Scappa ce ne sia bisogno sempre di più, cioè, che la gente scappi sempre di più. Di corsa. Che i reclusi scappino. Da loro stessi? La musica invita e il tema pure a questo momento cupo. Riflessivo. Tema riflessivo. Godiamocelo. Esatto. Intanto cuoricini. Dal nostro cuoricini amico Coso. Da Coso sul pad. Dopo che abbiamo espresso entrambi un pensiero su quello che pensiamo delle carceri. Quindi. Ci troviamo d'accordo su questo pensiero. Fuoco alle galere. Solo macerie. Cuoricini. Proviamo a alzare un po' i toni. Dagnene. Dagnene orfas. Thank you. so se siete pronte, però tendete le orecchie, sta per arrivare il momentone del concorsone. E grazie, doctor. Ebbene, bene, sì, perché come ogni venerdì raccogliamo gli svarioni dalla comunità, gli svarioni intergalattici che ci giungono. E quindi tenetevi pronti, forse le distopie sono già qua, forse no, forse è l'ora di parlarne. Bene, bene, sì, dai, vi mando lo spottino così vi fate un'idea di che cosa stiamo parlando. Lo spottone. Tu pensavi che ci stessimo riscaldando, che non facessimo sul serio, vero? Sì. È incredibile. Non può essere vero. Quel moccioso pensava che non facessero sul serio. Sì, povero illuso. Sei così ottimista che tutti ti infamano? O credi che al peggio non ci sia mai fine? Ti lasci dolcemente cullare nel presente? O il futuro è già impresso chiaramente nella tua coscienza? Sei in contatto con ogni universo parallelo? O il tuo cervello è l'unico mondo possibile? Se proprio questa realtà ti doveva toccare, corri subito a prendere carta e penna! Impasta le tue meningi, lucida la sfera di cristallo, ascolta la sinfonia dell'infinito! Aggrega qualunque altrimenti in un unico adesso e spiegaci che potrebbe succedere ancora! Dai ascolto alle tue più deliranti premonizioni, alle tue più razionali previsioni, o dici semplicemente quale scenario ci aspetta per il futuro. A questo punto, scrivi il tutto in una lingua comprensibile e invialo a distopie@esiliati.org. Ogni venerdì, dalle 19 alle 21, leggeremo i testi e assegneremo ricchissimi premi! I premi verranno assegnati in maniera completamente casuale e contro qualunque competizione. Se non l'avete ancora capito, vogliamo leggere in radio cose deliranti scritte da voi. Adesso vai, figliolo. Devi riportare la pace sul nostro pianeta. VHS. È un film strano, vero? Disse la ragazza mentre usciva dal locale. Non è proprio un film strano, rispose lui, che era schizzato già fuori da quel posto angusto e inospitale. Erano i primi giorni di dicembre e l'inverno era alle porte. Però è vero, aggiunse poi, saltellando sul marciapiede per riscaldarsi. A me trasmette qualcosa di strano, un inconfessabile segreto. E continuò. E poi sai che cos'è? E senza aspettare risposta, aggiunse, è che si continua a credere che la vita sia una favola. Quella che tutti noi vorremmo vivere, disse lei con voce laconica, tirandosi su lo zip del giaccone. Fuori faceva davvero freddo e si era alzato anche un po' di vento. Camminavano svelti, il tragitto da percorrere non era così lungo e poi con un po' di movimento si sarebbero riscaldati. Lui aveva riattaccato a parlare a voce alta. Siamo ancora lì, con il naso appiccicato al vetro del negozio illuminato a festa, aspettando qualcosa. Il nostro inconscio da Trento grida, qualcosa di bello, misterioso e segreto sta per avvenire. Quei due era da un pezzo che non si vedevano e avevano tante cose da dirsi. Lei aveva un lavoro precario che la portava spesso fuori città. Contratti a tempo determinato che sembravano doversi rinnovare, ma poi, all'ultimo momento, non avevano seguito. E così lei rimaneva in sospeso, come in un limbo, ad aspettare la chiamata successiva, se mai ci fosse stata. Nel frattempo la sua vita si svolgeva nella ricerca spasmodica di un'altra opportunità, di un altro contratto, lungo o corto che fosse, ottenuto grazie a una gravidanza, un vero miracolo, visto che ormai di bambini non se ne facevano quasi più, oppure a causa di una malattia, o per le ferie di qualcuno. Ma anche così si poteva aspettare solo di passare un'estate più o meno torrida in una grande città sommersa dal caos e dallo smog. E poi essere sbattuta in uno sconosciuto villaggio di montagna in fondo ad una valle. Magari proprio in pieno inverno, perché in quel posto, in quella struttura assistenziale dove lei avrebbe svolto il suo lavoro da infermiera specializzata, qualcuno se n'era andato altrove, forse per sempre, stanca o stanco di vivere nell'isolamento gelido di quei luoghi e in cerca altrove, probabilmente all'estero, di un lavoro meglio retribuito, più duraturo. Lui recitava. Stiamo davanti al mondo come ad una vetrina addobbata a feste, non ci stanchiamo di appannare il vetro con il nostro fiato. Dopo anni all'università, nella facoltà di medicina, una di quelle difficili, non aveva superato tutti gli esami e invano aveva sperato di rimanere come ricercatore. Suo padre, circa un decennio prima, aveva lasciato un impiego alle Poste per farsi socio di una ditta vitivinicola che gli aveva consentito di raddoppiare lo stipendio. Per un po' di anni gli era andata bene, il figlio aveva potuto iscriversi all'università. Poi la crisi nel 2008 aveva bloccato il mercato, le commesse erano diminuite, del livello di dirigenziale si era trovata a fare il lavoro di rappresentante e ora rimpiangeva il modesto impiego precedente. Il figlio Marco aveva ripiegato sul triennio di farmacia, con grande fatica stava portando a termine gli ultimi esami. Inatteso gli era capitato un lavoro come informatore sanitario per una piccola ditta farmaceutica che lo mandava in giro per l'Italia nei più sperduti villaggi, dall'estremo nord al profondo sud, a caccia di medici a cui proporre le novità farmaceutiche. Ci vogliamo illudere di essere ancora dei bambini e come tali restiamo sempre in attesa di qualcosa. Camminavano abbracciati ora, a passi veloci, come di chi ha fretta di tornare a casa. Fu lei a continuare il discorso. Vorremmo vivere la vita, la nostra vita di adulti, come la nostra infanzia, con la perenne attesa della vigilia e dell'arrivo di qualcosa, un regalo, una sorpresa che ci farà felici. Lunghe file di auto in sosta fiancheggiavano i marciapiedi di un viale ai cui lati erano piantati tronchi di alberi, spogli di foglie e ricoperti di una sottile rete di nylon, a cui erano aggrappate centinaia di stelline colorate. Tutto l'aspetto era quello di un addobbo natalizio, le luci però erano spente e a fioca l'illuminazione dei pochi lampioni accesi gettava sull'asfalto lunghe ombre scheletriche, deformi e inquietanti. Nel mezzo della strada, altre auto in sosta, in doppia e tripla fila, ingombravano buona parte della carreggiata in modo disordinato. Sembravano essere lì da molto tempo. Poco più avanti, una ressa di persone faceva capannello ad una fermata del bus. Facce stanche, pallide, d'occhi stralunati, perforavano il buio della notte mentre le loro figure si muovevano quasi come un corpo unico, ondeggiando stretti gli uni contro gli altri in un ritmo lento. Ci immaginiamo e costruiamo aspettative. Poi la mattina ci svegliamo dopo una notte quasi insonne per l'ansia d'attesa, proseguì lei mentre camminava e saltellando scansava cartoni e bottiglie abbandonate lungo il marciapiede nei pressi di una fila di cassonetti strapieni di spazzatura da cui fuoriuscivano anche effluvi maleodoranti. Davanti ad uno di questi, con il corpo per la prima metà infilato in uno dei cassoni, un vecchio razzolava all'interno con un'asta. Alla cui cima era legato un gancio rudimentale, cercando di tirar fuori qualcosa dall'interno. Sentendo arrivare qualcuno, si nascose velocemente. Due ragazzi videro un'ombra sparire tra i mucchi di rifiuti, veloce come un topo sorpreso a rosicchiare un avanzo. La ragazza riprese il suo passo vivace. Era decisamente allegra quella sera, perché dopo tanto tempo aveva riabbracciato il suo compagno. Sarebbero stati insieme, avrebbero fatto l'amore, avrebbero parlato ancora del film che avevano visto e di tanto altro. Passando davanti ad una delle tante porte socchiuse dei palazzi perspicienti il viale, lei disse: «Fermiamoci qui per un po', è ancora presto per tornare lì dentro. Staremo al caldo, ho voglia di abbracciarti». «Tu sei pazza», rispose lui, fattosi improvvisamente serio. «Lo sai che non si può fare». Lei però già non lo ascoltava più e si era infilata svelta all'interno del portone, cercando di trascinare dentro anche lui, stretta com'era alla sua mano. Quando sentì nel buio qualcosa batterle forte contro il petto e una voce dall'accento incomprensibile che le gridava qualcosa di minaccioso. A stento lui riuscì a trattenerla fuori da quell'antro e insieme si misero a correre all'impazzata verso una piazza che era proprio in fondo al viale che stavano percorrendo. Aneliamo al fascino del mistero, lo costruiamo giorno dopo giorno, evochiamo le ansie notturne dell'attesa, disse lui, quasi gridando, e ridendo si sedettero su quella che un tempo doveva essere stata un'aiuola ed ora appariva solo un campo incolto. «Che ti avevo detto?» aggiunse lui, sdraiandosi e attirandola a sé in un abbraccio. Poi tirò fuori dalla tasca la scatola rettangolare che conteneva il film che avevano visto e si mise a farla volare in alto facendo a gara su chi l'avrebbe ripresa per primo. Ci immaginiamo e costruiamo aspettative, così come si aspetta l'arrivo di quell'uomo grosso e grasso vestito di rosso e con la barba bianca che percorre il cielo, diceva lei, ridendo e saltando lentamente addosso a lui per cercare di riprendere per prima la scatola che volteggiava nell'aria. Con una slitta tranata da sirene che la notte di Natale si cala nei camini per portarci dei doni da un camino all'altro, instancabilmente, concluse lui, placcando definitivamente l'oggetto. Sdraiati sulla poca erba rimasta in quell'aiuola, i due guardavano il cielo sopra di loro scambiarsi di tanto in tanto dei baci e qualche effusione. Rimasero così in silenzio per una decina di minuti. Il cielo era nero come la pece e così intriso di nuvole scure da non lasciar trapelare la luce neppure nella più piccola stella dell'universo. D'improvviso, un bagliore rischiarò la notte e una pioggia di stelle d'argento cominciò a cadere dall'alto. Come neve, lentamente, disegnando strisce di luci simili a stelle cadenti. «Guarda», disse la ragazza, risvegliata da quella improvvisa visione. «Le stelle cadenti, guarda quella scia, come nei film». È Babbo Natale guidato dalle renne. Un suono di sirene si avvicinò velocemente e presto fu come un grido, uno squarcio nel silenzio della notte. Tre pantere della polizia si fermarono nei pressi della piazza. Al loro seguito due furgoni blindati si appostarono alla fine del viale. Dal cielo a bassa quota una decina di droni sorvolavano e illuminavano la zona. Quattro poliziotti, vestiti in aspetto antisommossa, con giubbetti antiproiettili, mitra alla mano e casco, corsero verso i due ragazzi. Altri bloccarono il viale con cordoni e transenne e vi appesero sopra una grossa sirena lampeggiante. Trattenuti a terra, i due giovani vennero perquisiti e ammanettati. La cassetta contenente il film in VHS requisita. Uno dei poliziotti parlò al telefono. Requisito oggetto non identificato, due sospetti, li portiamo in centrale. «Ma è il film della nonna!» gridò la ragazza prima di essere sbattuta in un blindato con le manette ai polsi. Poi una volta a bordo, quasi rassegnata, rivolgendosi al suo compagno, anch'egli ammanettato e ammutolito, gli chiese «È il segreto, inconfessabile!» Con la voce fievole e col capochino, lui le rispose piano, quasi sussurrando. L'inconfessabile segreto è quello di aver scoperto che Babbo Natale non è mai esistito, ma di non avere ancora il coraggio di confessarlo a noi stessi. Gianna Mestrelli. Avete probabilmente sentito, avete riconosciuto la voce di Beppe Manin che ci ha raggiunto in studio e ha letto in modo veramente impeccabile questo brano, questo scritto veramente molto bello che ci è arrivato. Sì, è un'ottima interpretazione di Beppe e grazie Gianna per questo testo. Bene, sì, Babbo Natale non esiste, ma non abbiamo il coraggio di ammetterlo noi stessi. Sappiamo. Vai, mandiamo un pezzo e poi ci buttiamo sul secondo spottino, sul secondo brano, che dite? Vai. Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! silenzio come Houston, non mi industrio nella fabbrica del lustro e degli eccessi, dove i colpi bassi sono ammessi, stressi annessi, concessi. Basta, torna Catalessi, torna, torna Catalessi, falli tutti pessi, torna Catalessi, torna, torna, torna, torna, torna questa vita di Saturna. Credici respirando ossidi, tossici, ordini, picci che dopo un dì sono fossili. Il futuro è come un piccolo capoccoli che con cessetti disegna cerchietti, donne e bossoli. Finge, cadaveri, contratti, stile, liberti, se lo rimproveri dovrai morire, non sei miseri. Compra tutto ciò che ha detto la spot, punta sulla roulette se non ti basta la slot. Gioca all'otto i tuoi bot, punta in porto lo yacht, trova un cazzo di sponsor e non rende la mascotte. Devi essere un benessere frenetico che ti porta ad essere un messere nel rastro. Corpi che mancano, sola, fra questi rami, senza i vostri corpi, sento i pensieri inariditi e la mia voce che perde il suono, questa voce che con voi ho scoperto, le vostre mani mi hanno sorretta e dolcemente l'hanno fatta uscire, stringendola forte, unendosi con le altre, e ora sono sospesa, senza le nostre voci estese, l'odore delle nostre vite, delle nostre maglie, l'odore di noi, la ruvidità dei nostri corpi che si sostenevano, mille paure che divampano dentro, da consolare, da toccare con cura, questi corpi da proteggere, le nostre parole piene di desideri, mentre il sapore del vino ci bagnava le labbra e ci faceva ridere, il mondo che si guardava con i nostri mille occhi, gemme cariche d'amore, che ci cullavano, ci portavano via da questa solitudine, da questo mondo che ci spoglia e ci rende questi corpi vuoti, senza ossa, insieme con la nostra pelle. L'odore di storie diverse che si intrecciano, ossa sparse, che insieme abbiamo ricucito e riassemblato, corpi che emanano calore e vogliono essere uniti, hanno la profondità del tempo e dei luoghi solo se si ritrovano. Ho bisogno del vostro odore, di pelle, di sguardi da condividere. Non è un albero che si delinea, ma sono corpi, profondi e intensi, radici e alberi, che non hanno bisogno di un nome, per sentirsi, per aiutarsi, per esserci. Questo è un altro testo. Sì, è un altro bel contributo di un'amica che non vuole svelare il proprio nome. Contributo bellissimo, e grazie Modesta per come l'hai letto e per come ce l'hai fatto condividere. E grazie anche al Reverendo che trova sempre dei tappeti perfetti, appropriati secondo me. Vai, prego. Ci dobbiamo le parole a sto giro, doctor. No, io volevo intanto, vabbè, probabilmente anche questi testi potranno vincere dei premi del nostro super concorso. Sì, vincono tutti. Nel frattempo, così, nel frattempo, ragazzi, salutiamo Albus che ci scrive sul pad. Grandissimo, Albus! ci manchi un sacco. Ma dove sei? Ce lo dice anche. non ve lo diciamo per dovere di privacy. Però, grandissimo Albus. Sì, sai mai che tutte le fan di Albus andassero a cercare. Esatto, poi si trova domani. Altro che assembramento. E poi volevo, insomma, sempre sul pad. Volevo dirvi che Coso alla fine ci ha scritto aggiornamenti puntuali sulla situazione delle carceri, bello come una prigione che brucia, su Blackout il lunedì alle 11, quindi su Radio Blackout. Coso ci ricorda questo appuntamento grande, e salutiamo i compagni di Radio Blackout. Esatto, grandi. E poi dai, il pad sembra aver preso vita, e quindi il grande Albus ci sta scrivendo roba a caso, tipo Privci, giusto? Sì, io giustissimo. Si vede che inizia a essere l'ora di cena e possiamo dare i numeri. Esatto. O è la fame o è l'alcol, Albus. Va bene così. Però poteva mandarcela una canzoncina per telefono, eh? Vuol far sentire la sua mancanza. Intanto qui a Frittole siamo al buio, l'unica lucina che avevamo è sparita. Io so anche perché. Speriamo che ci illumini la luna. È sparita perché è stata usata per la festa per la fase 2. Festa di inizio fase 2. Sì, l'altra sera l'abbiamo detto. Quindi vabbè, siamo senza luce. Ma prosegue comunque. Beh, ricordiamo wombat.blogs.org. Ricordiamo frittole@gattini.ninja. Sì, l'unico modo per immunizzarvi davvero è ascoltare Radio Wombat. Sì, dato che l'ora di cena, io c'ho l'ultima cosa. E dai, E guarda, aspetta un secondo, ti interrompo perché Albus chiaramente ha palesato la sua richiesta di brano. Scrive è venerdì, quindi radio aperitivo credo sia l'alcol. E mettete alcol dei Gogol Bordello. La scarichiamo, Albus. Neverboy è sempre pronto. Sì, in extremis ci proveremo e forse ci riusciremo anche, perché il nostro reverendo è una scheggia. Sì, è un esperto. Quindi l'alcol è la causa dei tuoi vaneggiamenti. Infatti lo sospettavamo. Dicono che anche con dosi massicce di alcol ci si può immunizzare, tra l'altro. Sì, esatto. Aumenta gli anticorpi. Quindi ricordiamo i modi per immunizzarsi. Allora, cena punk. E infatti i punk sono doppiamente immuni. Allora dovete nutrirvi come i punk, bere come i punk. Forse la soluzione è avere il fegato spappolato e ascoltare da The Wombat. E correte presto ad acquistare le nuove mascherine serigrafate Radio Wombat, presto disponibili in tutte le distro del mondo. Sempre sul pezzo. Ma magari. Ma magari. Radio Pippotto per voi. Can I kick it? So all the people dressed like toddlers. Did you really know what I was? Una delle gioie di questo periodo è stata vedere tante persone bardate. Obbligatoriamente volto coperto, niente più telecamere che intercettino la complessità del volto. C'era un bellissimo meme con Black Bloc bardati che dicevano quando noi rispettavamo la profilassi, e subito sotto c'è una foto dei Disobba, voi creavate assembramenti. La sono ricordata subito anch'io. Invecchiamenti politici. Albus, arriviamo. Arriviamo, arriviamo. E anche tu ci manchi. Eccolo. Reverendo H, Never Boy, sempre più veloce, sempre più perfetto. crawling up my spine. Alcohol. I was waiting long, long time. Alcohol. Now you teach me how to rhyme. Alcohol. Just don't stop me in the back with a cortisol. Now forever reunite. Alcohol. Now you teach me how to and you know that I'll pick up every time you call. Just to thank you one more time. Alcohol. Come ha richiesto Albus Silente, abbiamo mandato questo brano Rego col bordello, Alcohol. Bene, 20 e 54 da Frittola è quasi tutto. Quanto caos. Allora, reverendo, C'è un'ultima rassegna con la quale vorrei... È una rassegna bellissima, la storia è che... La rassegna scappa, non fa più notizia, bravo, non serve più. Bravo. E quale migliore rassegna se non quella dei gattini? Gattini pucciosi, sì, e pelosi. Esatto, proprio quella. Facci sognare. Allora, DuckDuckGo, il nostro motore di ricerca preferito, nella sezione news, ci dice che 5 gattini sono stati salvati da un'intercapedine di un supermercato a Torino. Oh, sì, 5 sì. Gattini in più. I supermercati fanno male, anche i gattini. Esatto. Grande distribuzione uccide. Come ci siano finiti è un mistero. Ma 5 gattini erano riusciti a infilarsi dentro l'intercapedile di un muro in un supermercato. Tutte 5. Per salvarli i vigili del fuoco hanno dovuto fare cose. Rispettiamo solo i pompieri. No, non i era i pompieri, neanche... paura non ne ha. No, regà, dai, no. Per favore, non rispettiamo neanche loro, secondo me. Rispettiamo solo i gattini. Solo i bidelli. Rispetta. Non andiamo fuori tema, su. Va bene, dai, scusa. Su. Un sacco, ci sono tantissime notizie su questa cosa. Ma davvero tanti. Altro che scappa. Sì, qua. Sì. Totali 5 gattini, c'è anche il video, tantissimi... E poi 3 gattini si incastrano nel motore di un'auto, salvati dai vigili del fuoco di Matera. Sì. E vai. Parliamo bene. È stato necessario ricorrere all'intervento dei vigili del fuoco per salvare i 3 gattini. E poi ancora notizie ancora Torino, ancora Torino. Poi ci sono un sacco di notizie brutte, no, di gattini abbandonati. E non dimenticate di donare, ci dicono, crocchette ai gattini. Ah, questa era bella. Cuccioli di gatti selvatici più piccoli del mondo nati nel Regno Unito. E quanto sono piccoli? Vorrei approfondirla questa cosa. Però volevo cambiare musica. Interessante spunto scientifico. Ma a me questa musica mi sa molto di gattino, mi piace. È che è finito il pezzo. Ah. No. A 3 minuti dalle 9. Parlaci ancora di gattini. In Inghilterra, e precisamente a Portwell Wildlife Park and Sanctuary, sono nati due cuccioli appartenenti alla più piccola specie di gatto al mondo, il gatto rugginoso. Bellissimo. Prionailurus rubiginosus. Viene. A quasi due mesi, i cuccioli hanno appena iniziato a esplorare la loro nuova casa insieme alla madre. Il parco non è ancora sicuro dei loro sessi, in quanto riferiscono che la mamma li ha tenuti così vicini che non sono stati in grado di avvicinarsi abbastanza da controllare. Ma si stima che i gattini pesino solo da 60 a 77 grammi, mentre la loro grandezza è comparabile a quella dei topi, fino ad arrivare dai 35 ai 45 centimetri in età adulta. Il gatto rugginoso è endemico delle foreste dell'India e dello Sri Lanka, ma le loro popolazioni selvagge sono attualmente minacciate a causa della perdita di habitat. Queste creature sono minacciate dalla caccia, sia come cibo o per la loro pelle. Comunque hanno gli occhi 6 volte più potenti di quelli di un essere umano. Hanno 6 occhi? Non ho capito. No, ne hanno... sì, 6. Ah. Guardare davanti, in alto e in basso. Si nutrono principalmente dei roditori, uccelli, lucertole, rane e insetti. Sono abili scalatori e scappano spesso sugli alberi alla sì. vista di qualche predatore più grande. Vedi che rientra nella rassegna scappa anche incredibile. Questa. Scappa! Scappa! Basta, è finito. Bene, comunque bene. È la stagione dei micini, consigli su cosa fare, andateveli a leggere, è stagione. È stagione, nascono. Allora, sono le 9, direi che abbiamo finito un'altra favolosa puntata di Radio Conato, vomitiamo con voi e per voi. E ci vediamo venerdì prossimo. Ora diamo la linea Uhuru. Mitico. Restate sintonizzate sulle frequenzissime di Radio Wombat, che alle 9:30 c'è una nuova diretta. Intanto è stato bellissimo e il reverendo vi saluta. Ci sentiamo presto. Reverendo espertone, anch'io saluto le 13 entità che sono connesse con noi in diretta adesso. E... belle, belle tutte. Ebbene, ciao entità, saluti da Mori, sono contentissima di essere tornata fra di voi in questo bellissimo studio. E per finire, saluti anche dal Baby Marine. Ciao ciao, buona nottata a tutti. Stampa vi saluta ai prossimi consigli cinematografici. Grande stampa. State su Radio Contado. Dai, scrivete Radio Contado. No. Hai sbagliato. Ho sbagliato proprio la fine. Che cazzone. Thank you.